Salve amici di Radio Big World e benvenuti alla puntata numero 25 di A Tavola con Fabiola. Io sono Fabiola e la ricetta di oggi è risotto al limone con calamari. Ingredienti per 4 persone: 400 g di riso, la scorza di un limone, 6 calamari puliti, mezza busta di zafferano, 20 g di burro, burrata, 10 g di formaggio grattugiato, una cipolla bianca, 100 ml di vino bianco, olio extravergine, sale. Preparazione: tagliare i calamari a pezzetti e tritare finemente la cipolla. Mettere la cipolla in una ciotolina di vetro e coprirla con l'olio extravergine. Mettere a cuocere nel forno a microonde, massima potenza per 2 minuti. In una pentola metti a bollire 2 litri di acqua. Aggiungere poi la scorza del limone e lasciare bollire per 10 minuti. In una casseruola mettere a tostare il riso, a secco e senza aggiunta di grassi. Trascorsi 10 minuti, prelevare la scorza del limone dalla pentola, tritarla finemente e mettere da parte l'acqua. Tostato il riso, aggiungere la cipolla e mescolare. Quindi sfumare con il vino bianco e lasciare evaporare. Allungare il riso con l'acqua aromatizzata al limone. Mescolare e allungare con altra acqua, a mano che il riso si asciuga. A metà cottura, spolverare con lo zafferano e 5 minuti prima di spengere la fiamma, unire i calamari e la scorza del limone. Mantecare con il burro, il formaggio grattugiato e 2 cucchiai di burrata. Buon appetito! Il vino consigliato è Ribolla Gialla del Friuli Colio DOC. Gradazione alcolica 13. Temperatura di servizio 10 gradi. Questa era la puntata numero 25 di A Tavola con Fabiola. Io sono Fabiola e vi do appuntamento alla prossima puntata.